Cari amiche, cari amici, benvenuti a Radio Alma, brustolando, Maridia ai microfoni anche questa sera. E brustolando sta riprendendo lentamente, come avrete potuto notare, le trasmissioni della nuova stagione radiofonica per il periodo 2014-2015. Saluto in regia Dani M, i nostri Giorgio Lorà e Fiordaliso che saranno presto qui con noi perché al momento abbastanza operati di impegni, quindi saluto. Entrambi. Questa sera è una puntata molto speciale. Avrete notato che finora abbiamo dato spazio agli ospiti musicali ed è infatti su questa scia che Brustolando proseguirà nelle prossime settimane. Abbiamo deciso anche di cercare di monitorare più da vicino, laddove ovviamente c'è possibile e consentito secondo quelle che sono le nostre disponibilità di tempo, l'agenda musicale che per più motivi in passato siamo riusciti a seguire soltanto a sprazzi. E questa sera vi parleremo di una giovane cantautrice che, pensate, ha cominciato la sua attività giovanissima, non aveva ancora 20 anni, occupandosi di musica popolare, una passione che ha sempre alimentato sin dall'infanzia, e folk mediterraneo. Quindi questi due elementi mi sembrano essere già sufficientemente esplosivi, soprattutto per una giovanissima, e quando si parla poi di musica popolare e di folk. Ha continuato poi il suo percorso esibendosi con frequenza un po' in Sicilia, che è la sua regione di origine, un po' in Europa, infatti è stata recentemente proprio a Bruxelles, con progetti musicali di varia tipologia, dall'irlandese, dal barocco classico al country folk. Per la prima volta nel 2009 decide di far uscire le sue canzoni, finalmente di pubblicarle, di renderle note, creando il progetto Doyne, una banda di cinque elementi che le ha portato un certo numero di premi. E anche, insomma, è stata riconosciuta anche da varie riviste artistiche come Balarma, Weibel, che non conosco ma penso si pronuncia così, WhatsApp e Keep On, e nonché poi, insomma, finalista in vari festival italiani e non solo. Immaginate che nel 2012 partecipa per la prima volta negli Stati Uniti nel programma radiofonico Green Festival di Asheville, in North Carolina, e affronta un mini tour solista di tre date tra Atlanta, Georgia e Asheville stessa, nella quale, ora possiamo dirlo, Sara Romano, che è la nostra protagonista, sperimenta nuovi arrangiamenti acustici per i suoi pezzi e per cover di tradizione italiana e sudamericana cantautoriale. Nel 2013 Sara comincia un progetto solista e a dicembre dello stesso anno, quindi qualche mese fa, lancia il suo primo disco, la parte migliore. Sono brani impegnati, sono brani che ricordano anche quella che è la nostra situazione attuale. Insomma, ci sono tante cose che accadono nel mondo, e probabilmente, sicuramente, come Brustolando ormai racconta già da tanto tempo, l'arte è uno degli strumenti migliori per cercare almeno di capire che cosa sta succedendo, anche se non è sempre facile. Sentiamo, perché sento che Dani M è già disponibile in regia, quindi vediamo se Sara è già qui con noi. Cari amiche e cari amici, quindi come annunciato, sono lieta di avere qui con noi Sara Romano. Sara, allora, com'è nata la tua passione per la musica folk e la musica popolare? Comunque di divoratori di musica. I miei genitori avevano degli amici che suonavano in un gruppo che faceva tendenzialmente musica folk, più contradanze, musica popolare di un certo tipo, pizziche, tarantelle. Sin da piccola c'erano le feste, io stavo lì, li ascoltavo, mi incantavo. poi è cominciato il periodo chitarra da spiaggia, insomma, e da lì in poi mi sono approcciata alla chitarra e a tutto quello che è la musica folk e popolare. Ho cominciato con quella e lo stile cantautorale, devo dire che è rimasto nei miei ascolti sempre. E chi sono i tuoi maestri, quindi, e coloro i quali continuano ancora ad ispirarti? Dunque, devo dire che io ascolto un po' di tutto. Sicuramente, se si parla d'Italia, per me il cantautore indiscusso è Fabrizio De André, ovviamente. Però ce ne sono tantissimi ultimamente che secondo me scrivono veramente bene. Nicolò Fabi mi piace moltissimo, il suo stile è molto bello, la maniera di scrivere di Silvestri, Gazzè, adesso sono in trio e suonano insieme, c'è anche Vinicio Capossela e tanti altri minori, insomma. C'è sempre da imparare, c'è sempre da ascoltare, e più come italiani, poi ci sono ovviamente quelli esteri, i cantatori spagnoli, Ismael Serrano, Joaquin Sabina, e poi gli inglesi, gli americani, insomma. Ce ne sono tanti. A proposito quindi di musiche e di artisti che ti influenzano, tu sei cantautrice, quindi scrivi sia le musiche, che i testi. Come nasce questo, diciamo, il tuo processo creativo? Ti ispira prima la musica e poi trovi le parole, o prima dalle parole poi nasce la tua musica? Sono curiosa di saperne un po' di più. Lavoro con entrambe le cose contemporaneamente, è difficile che una nasca prima dell'altra. Ci sono dei temi che mi appassionano, che leggo, che mi interessano e provo a suonarci la chitarra sopra e le parole scivolano da sole su quello che è la musica. Non ho dei temi o delle melodie su cui lavoro prima e poi ci metto su un testo o viceversa. Cioè, mi è capitato, ma non è la mia maniera di lavorare tendenzialmente. Io faccio entrambe le cose. Poi, ovviamente, una volta che testo e musiche si sono buttate giù alla chitarra, io mi accompagno con la chitarra, rimaneggio il testo, ma sull'idea principale. Certo, ho capito. E quanto c'è di Palermo nelle tue canzoni, oppure della tua Sicilia? C'è tutto. Io sono nata e cresciuta e sono una donna di isola. Mi ricordo che all'università seguivo delle lezioni che avevano come fondamento questo principio. La maniera di pensare delle persone nate in un'isola è totalmente differente da quelle nate in terraferma o, cioè dipende dal paesaggio che plasma la tua maniera di pensare. Quindi si diceva che i siciliani avessero un pensiero liquido rispetto a quelli, non so, che crescevano, nascevano in montagna. Allora io ho cominciato a riflettere che comunque la Sicilia, essendo un'isola tendenzialmente grande, ha sia la montagna che il mare, quindi abbiamo sempre avuto un pensiero ibrido e tendenzialmente su questo principio io tento di riflettere e vado avanti. Dicevo in apertura, presentandoti, che hai avuto la fortuna di essere in tour negli Stati Uniti e sei stata in tour anche in Europa. Queste esperienze all'estero rispetto alla tua esperienza italiana, che cosa ti hanno lasciato? C'è qualcosa, un sentimento, un'emozione che vorresti condividere con i nostri ascoltatori? Dunque, quando sono stata in America, sono state due tournée molto diverse in realtà. Quando ho fatto le tournée in Europa ero con un gruppo che si chiamava Dwin, un gruppo di musica cantautoriale che utilizzava i miei testi, ma eravamo cinque persone, cinque amici che viaggiavano insieme ed è stato più come un viaggio vacanza musicale ed è stato molto molto bello. Tra l'altro sono miei amici tuttora, queste persone che suonavano con me. Rimani unitissima alle persone con cui affronti un percorso del genere. Io ho cominciato a suonare la mia musica con loro, tra l'altro. Mentre la tournée in America, che sono state 3 date, non tantissimo, però 3 date all'interno di 3 mesi, io ero completamente sola e ho viaggiato in macchina, facendo da New Orleans a New York praticamente e suonando in vari posti completamente da sola, e quindi è stato un viaggio che mi ha temprato molto quello. Sicuramente la cosa che mi è rimasta da questi viaggi è stato il senso totale di perdita dei riferimenti. E da lì in poi sono ripartita, perché una volta che una persona si perde, tu mi insegni, Certo, si riscopre, ovviamente. Sai, uno dei temi chiavi di Bruxelles è proprio il viaggio, quindi c'è sempre questo continuo perdersi e ritrovarsi allo stesso tempo, che, come sai, è soprattutto vero nell'arte, o comunque per tutte quelle persone che sono pronte a mettersi in gioco e a riscoprirsi. Tra l'altro è nutrimento primario per la musica, tu ti metti in gioco, vai, vieni in contatto con realtà assolutamente nuove ed è formativo e fondamentale per chi fa questo mestiere, secondo me, trovare stimoli, crearli, cioè, fino a un certo punto te li puoi creare da solo, poi certo, necessariamente devi andare incontro ad altro. Veniamo invece a questo tuo album per La parte migliore, come nasce? Allora, La parte migliore nasce in seguito a periodi travagliatissimi di decisioni, in realtà. L'anno scorso, a dire la verità, ho deciso di prendere in mano la mia carriera e andare avanti su un percorso solista, quindi trovarmi dei musicisti che suonassero per me. Diverso il percorso da solista rispetto a quello che fai da original band. In original band sei un tot di 3, 4, 5 persone, anche 6, che si spalleggiano insieme, vanno avanti su un percorso. Se tu decidi di fare la cantautrice solista, devi fare tutto da sola. Ti trovi i musicisti, ti cerchi le date, insomma, è diverso, forse un po' più stancante sotto un certo punto di vista. Però avevo, in seguito a, diciamo, delle questioni personali, avevo perso molto tempo su, insomma, per creare CD, per scrivere canzoni, e mi mancava l'ispirazione, quindi da lì in poi ho deciso, va bene, prendiamo in mano la situazione, andiamo da soli, e ho cominciato a riprendere dei vecchi testi scritti negli anni precedenti, tra cui una canzone che si chiama La parte migliore, che era stata scritta in un periodo che, come dire, corrispondeva in qualche modo a livello emotivo a quello che stavo passandolo un anno fa. Un periodo che poi ha tirato fuori quello che è la parte migliore, quella che rinasce, quella che viene dalle cose brutte e si riforgia. E da qui è nato il disco, che sono in parte pezzi vecchi, cioè scritti vecchi, insomma, scritti precedentemente negli anni scorsi, e alcuni nuovissimi che sono di recentissimo componimento, tipo La ballata delle parole complesse, o Chirico, che non è proprio recentissimo in realtà, 2-3 anni, però mi è piaciuto, mi è sempre piaciuta la dimensione del paesaggio, delle piante e del dialetto, ovviamente, perché io vengo da quello. Certo. Come dicevi, en passant, ti sei anche avvalsa della collaborazione di altri musicisti, ce ne parli? Ora suono con Luca De Lorenzo, che suona il basso elettrico e il contrabbasso, e mi sta dando anche una grossa mano, visto che stiamo registrando il nuovo album, perché La parte migliore era un EP. Uh-huh. Ora arriverà l'album con ben 12 pezzi nuovi, tutti nuovi di zecca, e dei vecchi arrangiamenti. Lui mi sta dando una grossissima mano per quello che è l'arrangiamento di questi pezzi, e nell'esecuzione dal vivo tendenzialmente lui è sempre con me. Mentre l'altra persona che suona con me in questo momento è Lucia Lauro, che è una percussionista molto molto brava, sempre palermitana, mentre Luca è di Agrigento, comunque gente della Sicilia, questo è sicuro. Vabbè, insomma, mi sembrano nomi abbastanza interessanti. Tu sei molto giovane, però già da tanto tempo che sei nel mondo della musica. Ho cominciato quando avevo 21 anni, ora ne ho 29. Quindi... Non lo so, in realtà mi sento vecchia per questo lavoro, forse un po' lo sono. No, assolutamente, ma che cosa ti sentiresti di suggerire ad un giovanissimo che coltiva il grande sogno di diventare artista nel mondo della musica? Guarda, che si ha sempre da imparare, io ho tantissimo da imparare, quindi non so se mi posso permettere di dare un consiglio a qualcuno, però sicuramente quello che ho fatto io è stato buttarmi. Cioè, le cose, se le scrivi e le vuoi condividere, è inutile che rimangano nel tuo cassetto, tanto vale suonarle a qualcuno o a più gente possibile, poi col tempo impari ad affinare la tecnica, studi, assolutamente, però le cose devono venire fuori. Certo, quindi c'è comunque un pizzico di audacia e bisogna anche sapersi proporre. In realtà sai che sapersi proporre è un mestiere che non mi appartiene, nel senso che ci sono le persone che fanno questo mestiere e lo sanno fare anche bene, tendenzialmente non sono mai le persone che eseguono dal vivo quello che fanno. C'è chi sa presentare i cantautori, vabbè, nel mondo della musica funziona così, anzi è gente che io apprezzo tantissimo, perché non è una cosa che viene naturalmente, l'arte di saper vendere, si deve studiare e imparare. Io sicuramente considero l'aspetto creativo del mio lavoro come prioritario, ma ammetto che sfortunatamente, cioè, per seguire tutto il resto ci vuole una grossa mano, perché non si può fare tutto da soli, se no rischi di togliere tempo all'aspetto creativo e tutto si potrebbe anche sterilire col tempo. Assolutamente, condivido. Senti, invece, purtroppo, come sai, il tempo in radio è tiranno, però prima di salutarci c'è un messaggio, oppure c'è qualcosa che non ti ho chiesto e che vorresti aggiungere in chiusura ai nostri ascoltatori? Che cosa? Oddio! Posso citare Nicolò Fabi, se vuoi, che è venuto a Bruxelles, tra l'altro, con gli altri due, con Silvestri e Gazzè. Sentivo giusto oggi una sua canzone e mi piaceva tanto, perché mi fa ricordare che cosa vuol dire fare questo mestiere. La canzone si chiama Mettere le ali, io spero che avrete maniera di passarla nella vostra radio. Cioè, nel ritornello di questo pezzo, il secondo refrain, lui dice: ricordiamo a tutti quanti di mettere le ali, ricordiamo ai musicanti di mettere ali, ricordiamo ai più pesanti di mettere ali, insomma, i parlamenti. Alla fine la musica fa questo, è soltanto un'altra maniera di insegnare alla gente di sognare, di andare oltre il reale si crea anche con l'immaginazione, e la musica è primaria in questo, riesce a farlo. E quindi non è giusto che rimanga, che si suoni solo per noi, si deve suonare per tutti, chi più o meno bravi che si sia. Guarda Sara, sono proprio perfettamente d'accordo con te, perché credo che questo mettere le ali poi lo si possa tradurre anche per le altre arti, quindi Brussellando parla molto di letteratura, insomma di poesia, quindi che cosa bolle in pentola? Qualche data, siamo molto ascoltati anche in Italia in streaming, quindi saluto anche i nostri amici italiani, quindi c'è qualche data che possiamo suggerire? Amici italiani, vi saluto! Allora, le date sono: a fine di questo mese saremo in trio in tournée nel messinese, quindi se siete di Barcellona, Pozzo di Gotto, Messina, date un occhio alla pagina Facebook o al mio sito Sara Romano, o ovviamente su Facebook, basta che scrivete Sara Romano, lo vedete. Se no, i primissimi di novembre si fa un giro in Calabria, che è molto interessante, poi a fine novembre, inizio dicembre, si sarà in Toscana, e si spera a gennaio, incrociamo le dita, vi raggiungiamo a Bruxelles e ci beviamo una birra insieme. E perché no? E quindi magari con questo ci salutiamo, con questo auspicio anche per i nostri amici all'ascolto, di continuare a seguire Radio Alma e Brussellando, perché Sara sarà molto probabilmente di nuovo qui a Bruxelles. Sara, noi ti auguriamo veramente tutto il meglio e ovviamente di mettere le ali. Anche a voi, grazie, complimenti per la trasmissione. Un bacio a tutti, a presto. Ed eccoci nuovamente qui, proseguiamo con quelli che sono gli eventi culturali di questo mese di ottobre. Bruxelles veramente è ricchissima, abbiamo cercato di selezionare quelli che possono essere più rilevanti per la comunità italiana, e proseguiamo con un incontro con il giornalista e scrittore Beppe Severnini, che è di ritorno alla Piola Liberi lunedì 27 ottobre alle ore 18:27. Se pensate che lunedì 27 ovviamente è un po' troppo in là, allora due eventi, e lì bisognerà decidere oppure cercare di ascoltare entrambi. Il 23 ottobre, quindi giovedì, sempre alla Piola Liberi alle 18:57, Levante, conosciuta veramente tra i giovani, e devo dire la verità, è una recente scoperta, l'ho scoperta proprio grazie a Beat Live e alla libreria Piola, continua questo viaggio quindi nella musica siciliana, già che Levante, come Sara Romano, è anche siciliana, anche se musicalmente adottata a Torino. L'entrata è gratuita, quindi insomma vi invitiamo veramente numerosi a partecipare, perché da quello che vi dicono ne vale veramente la pena. Se però la musica quella sera non fosse proprio nelle vostre corde, allora vi suggerisco un incontro con gli scrittori per la prima volta tutti e tre insieme, almeno a Bruxelles, poi non so se altrove l'operazione è stata già sperimentata, ma Silvia Vallone, Niccolò Ammaniti e Paolo Giordano saranno al Beaux-Arts, quindi questi tre giovanissimi scrittori, nonché talentuosi, che caratterizzano quelle che sono le ultime classifiche dei libri in Italia, saranno intervistate, immaginate, par Ine Rox, che è giornalista del The Standard, quindi insomma c'è questo bel incontro tra la cultura belga e quella italiana. L'evento invece avrà luogo al Beaux-Arts, nelle incantevoli sale del Beaux-Arts, quindi insomma per quanti volessero saperne di più vi invitiamo a consultare il sito internet del Beaux-Arts, che è beauxarts.com. Beh, e quindi speriamo che Bruxellando possa anche dare un seguito su questo evento. Concludo questa serie di eventi, prima di passare ad un altro suggerimento musicale, con un'altra cantautrice. Questa volta ci spostiamo dalla Sicilia alla Puglia, quindi questi nostri cantanti italiani che scrivo canzoni new beat con un linguaggio semplice e diretto, beat come beata viaggiatrice nel liquido mare del presente, tanto per citare le sue canzoni. Lei, avete capito, no? Si tratta di una che offre, nel descrivere la sua poetica, un registro sincero e diretto, tra virgolette, in linea con la nostra migliore tradizione cantautoriale italiana. Pensiamo per esempio a Fabrizio De André, Giorgio Gaber, Rino Gaetano, Piero Ciampi, da cui ovviamente si distacca in maniera inevitabile per dar vita ad una sua maturata veste stilistica che ricorda, sia per composizione musicale che per vocalità, la scena punk americana degli anni 70, con Patti Smith in prima linea e i Velvet Underground a seguire. L'entrata è gratuita anche in questo caso, il luogo di ritrovo è la Piola Libri dalle 18:57, quindi non mancate perché effettivamente ne vale la pena. E ora ascoltiamo questo suggerimento musicale. Cari amiche, cari amici, bentrovati. Di tanto in tanto non sento il richiamo in cuffia e mi perdo, e allora non capisco se sono in diretta oppure no, ma Daniele mi fa segno dall'altro lato, mi dice sì, parla, sei in diretta, e ha ragione. Vi avevo annunciato all'inizio di trasmissione che questa puntata di Bruxellando sarebbe stata ricca di eventi, e infatti continuiamo invece con gli eventi squisitamente belgi, con uno degli eventi che sta più a cuore a Bruxellando, che è il Festival delle Libertà, il Festival delle Libertà, che ritorna quest'anno dal prossimo giovedì, quindi da dopodomani, quindi vediamo se riesco, sì, quindi dal 16 ottobre fino a domenica 26. Il programma è ricco, complesso, come sempre per questo festival, che veramente vi presenta e vi fa scoprire in maniera diversa quelle che sono le tematiche più attuali, e infatti quest'anno il titolo della manifestazione è Nuovi Discount, quindi le nostre vite, come possiamo dire, discount, beh, diciamo lasciamolo in con discount, perché in italiano quello che poi tradurrei non mi piace molto, anche se probabilmente c'è un senso di verità anche in questa parola. Avrete capito che il festival quest'anno fa riferimento alla crisi, questa volta decide di affrontare il tema dal punto di vista del consumo e del comfort, che pare ormai essere divenuto una nuova divinità, e quindi sembra che ormai ci siano solo due opzioni, almeno questa è la visione che ci viene offerta dal Festival delle Libertà: guadagnare di più oppure spendere meno. Quindi c'è questo approccio low cost che domina un po' le nostre vite. Giustamente si chiedono i realizzatori del festival, ma questo che cosa significa? Come possono delle imprese offrire dei prezzi low cost, e soprattutto qual è il costo di questi metodi a livello manageriale e finanziario? Gli autori del Festival delle Libertà ci raccontano quindi che dietro questa logica discount è la nostra vita soprattutto che è in saldo, quindi bisognerebbe riflettere un attimo prima di avventurarsi soprattutto in alcuni acquisti. Come al solito il Festival delle Libertà si svolge al Teatro Nazionale, che è in Boulevard Émile Jacquemin, nel centro città, quindi a 1000 Bruxelles. La tariffa resta praticamente basica, 5 euro. L'evento è aperto a tutti e potrete rinvenire maggiori informazioni sul programma, che è molto ricco e variegato e ce n'è per tutti, quindi non vorrei raccontarvi qualcosa che poi non vi piace, quindi vi lascio veramente scegliere. Visitate il sito del festival, che è Festival de Liberté con una S finale, point bene. Ma gli eventi a Bruxelles non finiscono più, perché Bruxellando avrà ormai raccontato tanti eventi e ce n'è effettivamente per tutti, soprattutto quando ritorniamo dalle vacanze, quando magari abbiamo meno voglia di riprendere poi le attività. E invece eccoci qui, c'è un evento pure che mi sembrava interessante, che si svolgerà solo questo weekend, quindi tra il 17 e il 19 ottobre, che è il Brussels Fashion Days, che effettivamente è un po' diventato l'evento incontornabile della moda belga, che riesce a riunire gli stilisti confermati e emergenti. Questi stilisti verranno a Bruxelles, ma provengono sia dalle Fiandre che dalla Vallonia. Pensate, il festival è la sua seconda edizione. La prima edizione fu un successo, registrando più di 8.000 visitatori, 4 defilé di 1.000 spettatori, 50 stilisti, nonché le 10 scuole migliori del paese, 3 workshop e un fashion pop-up store. Quindi, insomma, veramente ce n'è per tutti e c'è di tutto in questo che s'annuncia essere anche un inverno abbastanza particolare, almeno da un punto di vista climatico. L'evento avrà luogo a The Egg, sì, avete capito bene, The Egg come l'uovo in inglese, a Rubarà 175 ad Anderlecht. Non è necessario prenotare, e il sito dove potrete rinvenire maggiori informazioni è il Brussels Fashion Days. Vi ricordo, come giustamente mi segnala Daniele, gli orari. La kermesse inizia venerdì alle ore 18 e prosegue fino alle 2 del mattino, ricomincia poi il sabato dalle 12 fino alle 2 del mattino, per concludersi poi domenica 19 ottobre dalle 11 alle 19. Quindi per gli amanti della moda, per tutti coloro i quali volessero sapere che cosa bolle in pentola, soprattutto per quello che ci riguarda, cioè, già che viviamo qui e anche se siamo affezionati ai nostri colori, alla nostra moda di italiani, perché insomma, come dicono alcuni, noi italiani siamo riconoscibili dalle scarpe. E in realtà, quando sono arrivata all'inizio in Belgio, non riuscivo a capire bene. Ormai sono da 11 anni qui in questo paese e mi rendo conto che effettivamente è vero, noi italiani nel vestire siamo facilmente riconoscibili. Cambiamo argomento, perché chi non amasse il cinema, non amasse la moda, oppure in quelle sere non ha voglia né di impegnarsi al cinema né di cercare di capire quello che succede per la moda, soprattutto credo autunno-inverno, allora vi suggerisco il Festival Afro-Cubano Cuba Sabor. Quindi è l'associazione culturale La Casa Cuba che ha il piacere di invitare tutti noi al Festival Multiculturale Afro-Cubano Cuba Sabor, che avrà luogo, ovviamente avrete capito, questo weekend, e per l'appunto venerdì 17 e sabato 18, che raccoglierà un numero abbastanza discreto di artisti cubani, africani e belgi. Quindi dalla locandina, da cui emerge questo colore giallo fantastico, comparato alla giornata grigia di oggi, di sicuro ci sarà una dinamicità, una diversità e qualità che solo quelli del sud, diciamo proprio così, gli artisti del sud sanno regalare. Si apre quindi con alle 19, venerdì 17, con una conferenza afrocubana par Carelia de Cuba e proiezione del film Rumba Brava di Philippe Jespers, che è professore emerito dell'ULB e antropologo. Quindi, insomma, la serata non è soltanto musicale, quindi, insomma, c'è anche un momento di riflessione. Poi il festival prosegue sabato con stage di danza, canto, percussioni afro-cubane, marche artistique, insomma, che non possono mancare, nonché atelier per bambini, danze tradizionali e musica, insomma, ce n'è veramente di tutti. Tutto questo avverrà invece a Saint-Gilles, quindi vedete c'è modo insomma anche di conoscere un po' quelli che sono i diversi comuni bruxellesi. Le tariffe variano a secondo che partecipiate: il venerdì, dove il prezzo è di 5 euro, sabato di 8 per l'intera giornata, e invece c'è un combi ticket, come dicono da queste parti, che è di 12 euro per i due giorni. L'evento si svolgerà a Des Pianos Fabriques, a Rue du Fort 35, a Saint-Gilles, e quindi per quanti volessero saperne di più, vi suggerisco di consultare la pagina internet lacasacuba.eu.eu, e penso che, essendo Radio Alma anche una radio insomma di lingua spagnola, già che è la lingua più parlata da queste onde, da queste frequenze, già che noi italiani siamo riusciti insomma ad avere anche una nostra postazione, ci fa piacere insomma ricordare anche eventi di lingua spagnola. Ma non ho finito, non me ne vogliate, perché ve l'ho detto, a Bruxelles, a Bruxellando, ci sono tantissimi eventi. Allora ce n'è un altro, prima di dare la parola ancora a Dani M, che parla di Accessible Art Fair. Che cos'è quindi questa Accessible Art Fair? È una mostra che cerca proprio di mettere in contatto artisti di nuova generazione, di talentuosi, con il pubblico proprio intorno al tema del fair art. E insomma ci saranno, pensate, sono alla 11ª edizione, ci sono giovani galleristi che provengono da più paesi, e tutto ciò avrà luogo, pensate, in un contesto molto interessante che è il Circolo di Lorena, che ha la Place Polar, quindi restiamo al centro di Bruxelles. Il costo per partecipare all'evento è di 11,50 euro. La serata inizia giovedì, quindi giovedì 16 ottobre alle ore 18 e fino alle 22, per proseguire poi venerdì dalle 11 alle 19, sabato dalle 11 alle 18 e domenica dalle 11 alle 19. Quindi Accessible Art Fair, per quanti volessero sapere di più, non svelo più dettagli, altrimenti svelato l'arcano e non c'è più modo insomma di divertirsi. Ma quanti fossero incuriositi da questo evento, vi suggeriamo veramente di farci un giro. Ed infine, prima di passare la parola a Dani M, sì, mi scusa, avevo detto che quello sarebbe stato l'ultimo, il quartiere del Sablon è celebre e famoso per le sue gallerie. Quindi da qualche anno c'è più di una galleria di arte contemporanea che mette a disposizione una visita, e questo insomma è la settimana giusta per poter visitare più di una galleria d'arte del Sablon. L'incontro è per sabato dalle ore 14 alle ore 18:30, quindi sabato 18 ottobre. L'incontro è davanti alla chiesa di Notre-Dame du Sablon a Rue de la Régence. Per quanti volessero sapere di più, si può contattare l'ASBL Arcadia con la K per poter insomma prenotare un posto e visitare una delle gallerie di arte contemporanea qui nel centro di Bruxelles. Ora mi riposo, sì, perché ho bisogno di bere un po' d'acqua, e Dani M scalpita dall'altro lato perché credo voglia anche raccontarvi qualcosa, quindi dopo il suggerimento musicale Dani M ci racconterà qualcosa. A tra poco, restate con noi, Radio Alma, Bruxellando, e mi raccomando, continuate a bruxellare! Sì, grazie mille Maridì, volevo solo dire che la canzone che abbiamo appena messo in onda, cioè Mario Ti Amo della cantante Una, non è stata una scelta casuale. Infatti è con immenso piacere che vi annuncio la sorpresa di questa sera, e cioè che la cantante Una, che sarà tra qualche giorno a Bruxelles in concerto, è stata intervistata in esclusiva da Mary D per Bruxellando a Radio Alma, per cui restate con noi e sentite questa bella intervista. Cari amiche e cari amici, quindi come annunciato, sono lieta di avere qui con noi al telefono per Radio Alma e Bruxellando una nuova giovane, insomma una nuova voce del panorama musicale italiano, Una. Una, benvenuta a Radio Alma, Bruxellando. Ciao a tutti, ciao. Allora, sarai qui con noi a Bruxelles tra qualche giorno, quindi precisamente questo venerdì 17, intorno alle 19. E, sei giovanissima e quindi inizi insomma ad emergere nel contesto musicale italiano, quindi siamo a Bruxelles, siamo in una città che potrà apprezzarti tra qualche giorno. Raccontaci delle tue origini artistiche, quando hai iniziato a interessarti alla musica? Sin da molto presto, perché ho comunque mio padre è un musicista, è un batterista, e quindi il primo Natale che ricordo di aver espresso appunto un desiderio in questo senso è stato più o meno quando avevo 8-9 anni, e ricordo di aver chiesto una tastierina a Bontempi. Poi in seguito ho anche provato a studiare musica iscrivendomi al conservatorio, ma probabilmente in me c'era comunque una volontà di mantenere la musica una realtà, una forma di comunicazione totalmente ludica e giocosa, quindi libera da un discorso diciamo accademico e di studi. Da quel momento in poi quindi ho giocato con la musica e questa grande cosa che può essere appunto definita una passione è forse la mia migliore amica in questo senso, e quindi mantengo con lei un rapporto di dialogo libero e vincolato da ogni senso di obbligo o di dovere. Mi sembra di capire quindi che tu stia lavorando molto anche sul tuo stile, nonché sulla tua identità. Quanto questi due elementi, stile e identità, sono importanti nel tuo percorso artistico? Ma io ho sempre seguito artisti molto liberi nella loro forma, diciamo, espressiva, da David Bowie a Sinéad O'Connor, che amo incredibilmente, che ha attraversato generi musicali come il folk, come il rock o come addirittura l'elettronica nelle sue ultime collaborazioni con i Massive Attack. Quindi apprezzo tantissimo chi riesce a fare percorsi di contaminazione. Però è anche molto importante cercare una propria cifra stilistica che possa in qualche maniera aiutare sia il pubblico che l'artista stesso ad avere dei ganci con la propria realtà e a essere comunque riconoscibile. Mi sembra, guarda, estremamente interessante come argomento. Tra l'altro il tuo primo disco si intitola Una, Nessuno, 100.000. E quindi mi sembra di capire che anche in questo senso ci sia una forte connessione con l'identità, palesemente poi dimostrata nell'arte, per l'appunto in letteratura, da Pirandello. Sì, numerose diciamo riviste o comunque articoli che sono usciti un po' sul mio conto citano in maniera forse simpatica, ironica, questa mia diciamo schizofrenia poi artistica, che poi in qualche maniera viene tenuta a bada dalla mia volontà appunto di tenere tutto all'interno di un unico personaggio, che poi a questo punto è una, il nome che io ho scelto appunto come nome d'arte, forse perché in me convivono effettivamente anime molto diverse. Nel live sono un personaggio incredibilmente dinamico ed energico, mentre in studio mi piace creare una situazione diciamo di intimismo, se vogliamo, sia con la canzone e con la poetica che io ho scelto di avere, di interpretare. Quindi Una Nessuna 100.000 è un disco sicuramente molto autobiografico e molto intimo, mentre Come in cielo così in terra, che è appunto l'ultimo mio disco uscito neanche una settimana fa, invece è una mini raccolta di racconti sociali in cui ci sono personaggi, paesaggi e situazioni appartenenti comunque alla realtà che mi circonda narrati attraverso le storie di questi personaggi. Ci sono varie canzoni in questo tuo nuovo disco che raccontano realtà che a non tutti piace ascoltare e quantomeno raccontare. Ci racconti di qualcosa su Mario Ti Amo, il tuo brano musicale? Mario Chiamo è la storia di un banchiere di 40 anni che il giorno del suo compleanno decide di non recarsi al lavoro, ma piuttosto di attraversare, quindi di licenziarsi, e attraversa tutta la città a piedi, andando alla ricerca di Mario, un suo vecchio compagno di liceo, a cui poi rivelerà il suo amore. Quindi Mario Ti Amo è una doppia storia, è un'unica storia che incarna in sé una doppia rivelazione, ovvero una rivelazione verso quello che si è più portati a fare, quindi verso le proprie inclinazioni professionali, no? Coronato da questo gesto appunto del licenziamento verso un lavoro che comunque è oggi una forma di sussistenza e anche di sicurezza, no? Perché questo personaggio si licenzia dalla banca dove lavorava per inseguire magari le proprie inclinazioni vere. E la seconda rivelazione è invece quella proprio della propria identità sessuale, quindi di decidere di amare chi gli pare fondamentalmente. Quindi una canzone comunque ispirata al coraggio di prendere le scelte che uno ritiene più giuste per la propria vita. E il disco è un corollario di storie, di personaggi che in qualche maniera non sono poi così passive nella loro vita e che comunque hanno un approccio sicuramente critico e polemico verso la società. Il tutto però raccontato sempre attraverso l'amore, come Sotto il cielo dell'Ilva, che è un altro pezzo che parla di una coppia di ragazzi che abbandonano la città di Taranto, che sappiamo bene aver subito comunque questo grandissimo cancro che gli è stato inflitto dagli anni 50 in poi, da quando è stata costruita la più grande fabbrica siderurgica forse in Europa, e questo comporta un gravissimo danno ambientale che ancora oggi continua a fare morti bianche sul lavoro e non solo. E attraverso la storia d'amore di questi due personaggi si parla e si cita anche di questa realtà che tocca la città di Taranto. Poi c'è anche la professoressa d'italiano, invece la storia di un adolescente che si innamora della propria professoressa, ma che un bel giorno abbandona la classe, e che quindi questo abbandono viene quasi vissuto come un tradimento, ma poi il ragazzo scoprirà ben presto che la professoressa era solo una supplente, quindi non era una professoressa di ruolo, ma era una persona che, come tante oggi, attendono un concorso e attendono di poter essere insomma, attendono di poter avere un lavoro con la L maiuscola, come magari si poteva immaginare fino a un ventennio fa. E per non parlare troppo, insomma, per non svelare troppi segreti del tuo album, perché vorrei che il nostro pubblico partecipasse numeroso venerdì 17, c'è un altro brano che mi ha colpito, e questo è dedicato al lavoro, di cui pure tanto si parla in questi giorni in Italia. Ci accenni giusto qualcosina così al volo? Il lavoro è un brano tratto da un testo di Piero Ciampi, è stato forse uno dei miei primi testi riadattati in chiave contemporanea. Io adoro i cantautori comunque del passato, da De André a Ciampi a Tenco a Leo Ferré. Mi piace scoprire in loro semi di quello che è il presente oggi. Quindi, assieme a Gianni Masci, con il quale collaboro da anni come arrangiatore musicista, abbiamo riadattato questo brano degli anni 60, che parla appunto della precarietà del lavoro e della situazione drammatica che investiva l'Italia molti anni fa e che appare assolutamente attuale ancora oggi. Ahimè, il tempo, come sai, in radio è tiranno e vorrei continuare oltre, però siamo ormai agli sgoccioli. Tuttavia, c'è un messaggio oppure c'è qualcosa che vorresti dire ai nostri amici all'ascolto, agli amici di Radio Alma e di Brussellando? Certo, mi piacerebbe rendere questa conversazione, diciamo, virtuale e distante molto più vicina di quanto non sia, sperando appunto di poter incontrare dal vivo le persone che magari in questo momento sono in ascolto, poiché molto, molto presto sarò live proprio a Bruxelles presso la Piola Libri. Infatti ricordiamo a tutti i nostri amici all'ascolto che una sarà per la prima volta a Bruxelles in concerto questo venerdì 17 presso la Piola Libri alle 18.57, quindi vi aspettiamo veramente numerosi. Una, noi ti facciamo un grosso in bocca al lupo, perché questo sono sicura che è il primo, è il secondo anzi di tanti album che ti vedranno protagonista. Grazie mille e viva il lupo sempre. A presto, ciao. Alla prossima. Cari amiche e cari amici, dopo questa ricca e lunga lista di eventi, ai quali purtroppo non potrò partecipare perché è impegnata già altrove, auguro a tutti voi una splendida settimana, una settimana che per essere ad ottobre è ancora molto bella, quindi davvero non sembra di essere a Bruxelles, non sembra che sia autunno. Vorrei quindi augurare a tutti coloro i quali stanno rientrando a casa, a tutti coloro i quali che ci stanno ascoltando invece da casa, una piacevole settimana, soprattutto in compagnia di Radio Alma e di Bruxellando, per quanti poi volessero anche riascoltarci. Quindi vi suggerisco di visitare il nostro sito internet che è www.radioalma.eu/bruxellando. Ritroverete tutte quelle che sono le nostre puntate, i suggerimenti di lettura del Librangolo, nonché queste nostre puntate. La puntata di martedì scorso sarà presto disponibile anche sul sito, quindi non temete, e ringrazio tutti coloro i quali ci continuano a scrivere a bruxellando@gmail.com. Stiamo ricominciando, quindi non temete, piano piano riceverete tutti una risposta. Martedì, a nome di Radio Alma e di Bruxellando, vi saluta e vi auguro ancora un'ottima serata. A presto e a martedì prossimo!